la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, mercoledì 9 aprile 2014, siamo alle 16.37.26, oggi tardissimo proprio, sforiamo ogni ritardo ammissibile e andiamo subito al punto della giornata, va! Per vedere se volete chiamarci all'800240024 e dirci che cosa avete A capito, B pensato, qualche giudizio sulla accoppiata del DEF, documento economico finanziario, piano nazionale delle riforme, illustrato ieri in tardo pomeriggio, in serata in realtà, dal governo Renzi e poi in conferenza stampa da Renzi e il ministro dell'economia Padoan. Stella continua a dire che bisogna dire Padoan, ma lui dice Padoan. Allora, c'è un ospite, vi presento subito. In primis mi tocca, per evitare il conflitto di interessi, dire in sintesi, come l'ho commentato io ieri mentre praticamente la conferenza stampa era appena finita, ho scritto un commento che c'era sul giornale del gruppo Caltagirone, nel quale in buona sostanza ho detto, è chiaro che il mio è un punto di vista poco rappresentativo, iperminoritario, sono liberale liberista, però ho dato atto che ci sono tre cose significative e poi ho rimesso in fila tutte le mie critiche. Le tre cose significative quali sono? Che rispetto all'impostazione classica dei documenti dei vecchi DPF e poi da un anno a questa parte il DEF, è il piano delle riforme a prevalere sulle tabelle di finanza pubblica e non viceversa, come dire, come ha ripetuto Padoan, è solo attraverso riforme che scuotano davvero l'Italia che noi costituiamo un percorso di sostenibilità della finanza pubblica. Fino al passato era il contrario, il problema era come far fronte al deficit dovuto da aumento di spesa pubblica e debito pubblico. Attraverso come? Attraverso aumenti di tasse, perché questa è la storia prevalente che abbiamo avuto alle spalle. La seconda cosa, davo atto che nelle tabelle, sia nel quantificare gli effetti di finanza pubblica delle riforme che sono tutte riproposte e messe in fila, sia nella valutazione della crescita di quest'anno che resta modesta, sia nella valutazione di impatto delle misure della congiuntura sull'evoluzione dell'indebitamento per anno, cioè del deficit pubblico e del debito pubblico complessivo, oppure sulle stime dell'occupazione, il tasso di inutile ottimismo dei governi alle nostre spalle negli anni si abbatte significativamente, quindi un po' più di serietà, e questo aiuta a rendere più credibile l'Italia, e questo secondo me è un merito del ministro Padoan. Poi la terza cosa è il punto delicato, quello delle coperture che ballavano, a cominciare da la misura cardine a cui tiene tanto il Presidente del Consiglio, cioè i famosi 80 euro che sbagliate a credere se verranno messi in tasca a tutti quelli che sono sotto i 25.000 euro lordi. Quegli 80 euro netti più al mese di reddito arriveranno a quelli che saranno nella parte alta della curva delle detrazioni IRPEF, non sappiamo ancora come verrà disegnata, quindi non deludetevi poi, però è come vi dico io, e le coperture ballavano. Allora, sul fatto che le coperture ballassero, qui c'è una sorpresa che è venuta con 1 miliardo in più di entrate sulle banche, perché il governo, deludendomi molto, continua a difendere l'aumento della tassazione sui piccoli risparmiatori al 26% e quindi tasserà al 26%, non al 12% le banche che hanno avuto una ricca, per così dire, ridenominazione del valore delle loro quote in Banca d'Italia, e quindi gli spunta 1 miliardo. E poi c'è 1 miliardino che salta fuori dall'IVA dovuto al pagamento dei debiti alle imprese. E sono una tantum, come ovvio, però è anche vero che quel 1 miliardo di IVA è niente rispetto ai 3-4 di cui parlava Brunetta, ed è anche vero soprattutto che il governo dice che per gli anni a venire quelle una tantum si coprono con tagli di spesa e non con altre tasse. E io ho dato questi tre riconoscimenti. Poi c'è moltissimo da dire su quello che ovviamente dal mio modestissimo, minoritario punto di vista manca, perché per esempio le privatizzazioni, 12 miliardi quest'anno si riescono a incassare con le quotazioni, ma siamo già ad aprile, e però si conferma che non si del controllo. Apprezzo che per il socialismo municipale, le 7.700 società, si dica che bisogna cambiare il titolo quinto perché la Corte Costituzionale non continua a impedirle gli interventi da parte del governo di accorpamento, cessione e così via. Naturalmente è molto complicato, però insomma la volontà c'è, come mai avevo visto in un piano di riforme l'idea di procedere alla separazione contabile verticale totale di tutti gli asset di Ferrovie dello Stato, cosa che per un liberista bisogna fare, e bisognava fare anche per Poste prima di decidere di quotarla così insieme. Ci sono tante cose, diciamo, abbastanza apprezzabili. Di fondo è ovvio che questo non è un governo liberale, è un governo di una sinistra, diciamo però realista, non antieuropea, perché conferma il 2,6% del deficit quest'anno e dice che se si cambierà qualcosa per effetto di andamenti diversi bisognerà parlarne seriamente in Europa, ma questi difetti sono, dal mio punto di vista, minoritario. rispetto a chi bercia di uscire dall'euro, rispetto a chi lo attacca nel PD dicendo è un programma di destra, io sono realista e dico la destra ha fatto quello che ha fatto nei nostri anni, per il momento vedo anche delle luci. Il nostro ospite, sentiamo solo lui adesso da questo momento in poi, che ci spiega come la pensa invece, ha già parlato stamattina in televisione e ha dato un giudizio tranciante. E con noi il professor Riccardo Puglisi, che insegna economia politica all'Università di Pavia. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, professore. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, prima di entrare nel dettaglio, come giudizio complessivo, lei che giudizio dà? Beh, io ho dato un giudizio, penso, più pesante del suo questa mattina, che è dovuto alla lettura notturna del documento, delle 150 pagine del DEF, appunto, ieri sera. Lo sintetizzerei con tre aggettivi, ovvero sia è un DEF timido, elettorale e dunque deludente. Allora, spieghiamo i tre aggettivi in fila. Perché timido? Timido perché sostanzialmente si fanno le variazioni di un paese che ha bisogno di una scossa, che ha bisogno di una scossa di ottimismo, un paese che ha bisogno di avere una scossa dal punto di vista dei conti, che forse è paragonabile alla scossa comunicativa di Renzi. Ebbene, dal punto di vista dei conti invece gli importi sono piccoli semplicemente perché il governo Renzi, che è un governo a mio parere più a sinistra, spero che qualcuno se ne sia accorto, del governo Letta, in buona sostanza ha preso la spending review di Carlo Cottarelli, che si incardinava per una parte importante sui tagli delle pensioni, anche diciamo pensioni d'argento, pensioni di bronzo, non solo le pensioni d'oro. Questa parte è stata espunta già qualche tempo fa. È vero che, come dice Paduan, il documento, il DEF è basato sulle riforme, quindi è cambiata, diciamo, in una maniera copernicana il modo di strutturare il documento, ma resta il fatto che le riforme dei mesi precedenti, delle settimane precedenti, vanno nella direzione di essere più timidi. Quindi il DEF incorpora timidezza, incorpora il fatto che si fa un intervento sulle pensioni sopra i 90.000 euro, in buona sostanza il fatto è questo, ciò può avere un valore simbolico, ma il valore quantitativo di questo taglio è nullo. Qual è la conseguenza di questo? Quella che ha suggerito prima lei, ovvero sia che se le coperture non sono permanenti come un taglio delle pensioni e non se ne trovano altre di permanenti, si è costretti a cercare delle coperture una tantum, perché far pagare un'imposta sulla plusvalenza delle banche relativamente alla loro quota in Banca Italia a un importo maggiorato è far pagare una plusvalenza, basta andare a studiare ragioneria del primo anno, è una componente straordinaria, ovvero sia una componente una tantum. Quindi questo è un tema di timidezza dovuto a scelte politiche che sono state fatte. Il tema della timidezza si collega all'aggettivo elettorale, perché questo è un DEF che, per il fatto stesso che debba essere emanato con una certa scadenza, avviene prima delle elezioni europee, e le elezioni europee sono tali per cui il Renzi, che è diventato Presidente del Consiglio in una maniera in cui Enrico non è stato molto sereno, deve compattare il partito. Questo mi sembra il dato più rilevante. Ieri sera a Ballarò Pagnoncelli dava alcuni sondaggi relativamente all'approval rate, cioè il tasso di apprezzamento di Renzi in vari gruppi sociali. Il dato interessante è che il gruppo sociale in cui Renzi ha l'approval rate, cioè il tasso di approvazione più elevato, è quello dei pensionati con il 78%, quindi molto lontano dalla sua posizione della Leopold del 2012. Quindi il totale di tutto ciò è che è vero che il documento evita l'errore, e quindi in questo sono d'accordo con lei, evita l'errore di sparare cifre troppo ottimistiche che vengono smentite, ma la timidezza nelle previsioni è connessa alla timidezza delle azioni, delle riforme, per così dire. La timidezza delle azioni. Parliamo della sostanza. Poi allora, adesso la interrompo solo perché abbiamo i 60 secondi di informazioni stradali. E poi torniamo, anche perché nell'accettare i 32 miliardi di cottarelli triennali e non facendo interventi come quelli delle pensioni, ovviamente la domanda è su cosa lo faranno. Per esempio sui dirigenti pubblici, la cosa illustrata nel DEF è un pochino di più, un po' più severa di quello che si era capita prima, però il problema è che sull'ammontare triennale siamo ancora con tanti punti interrogativi su come si fa a fare quei 32 miliardi di tagli. Questo lo scopriremo solo vivendo. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:48 25 secondi con noi il professor Riccardo Puglisi, che insegna economia politica all'Università di Pavia. Stiamo parlando dell'accoppiata del DEF, documento economico finanziario, e del piano nazionale di riforme presentati ieri sera da Renzi e da Padoan. Come avrete capito, per esempio sui dirigenti pubblici si fa un passo in avanti rispetto al tetto che tentò di introdurre, molto aggirato ancora, ma che tentò di introdurre il governo Monti, e quel tetto era per i dirigenti pubblici quello della retribuzione del presidente, del primo presidente di sezione di Corte di Cassazione, quindi stiamo parlando di intorno ai 300.000 euro. Questa volta si abbassa l'asticella, si va ai 239 mila euro lordi, che sono la retribuzione del capo dello Stato, e per me sarà molto interessante vedere chi, coloro che devono scrivere le norme attuative, cioè i capi di gabinetto e direttori generali del ministero, a cominciare da quelli dell'economia, che guadagnano di più, quando dovranno scrivere le norme attuative, che si tagliano il loro stipendio. Ricordo a tutti che abbiamo per esempio magistrati in corte costituzionale che arrivano al 500.000 di euro l'anno. Però questo, e ovviamente anche questa ha una caratura elettorale, questa cosa è giusta, io mi ci riconosco, però capite che il problema, che invece il problema del professor Puglisi, su quale io mi ritrovo, è quello di un ragionamento generale su ciò che comporta per generazioni intere avanzate, che legittimamente riscuotono un trattamento previdenziale però retributivo, rispetto alle generazioni che ne avranno uno solo contributivo completamente diverso. Questo problema intergenerazionale, e stiamo parlando di circa 40 miliardi di euro l'anno, il professore mi corregge se sbaglio, circa 40 miliardi di euro l'anno che escono dalla fiscalità generale per riequilibrare il conto previdenziale intergenerazionale. Capite che questo è un problema enorme, sia di equità, sia dei conti di cui stiamo discutendo, rispetto ai quali la sforbiciata ai dirigenti pubblici, io mi ci ritrovo, ma capite che l'entità è completamente diversa. Sbaglio, professor Puglisi? Assolutamente, il conti, uno deve ragionare un po' come un ingegnere, oppure come uno che fa i conti di casa e valutare gli ordini di grandezza, cioè quanti zeri, tanto per intenderci, stanno dietro una certa cifra. Quindi questi interventi simbolici hanno pochi zero dietro, come ricordava lei c'è un tema che è generale e generazionale, relativamente al funzionamento del sistema pensionistico italiano, che è un sistema a ripartizione. Temo che i cittadini a volte non riflettano a sufficienza sul fatto che non c'è, i contributi non entrano in un tesoretto che poi diventerà la pensione dopo. Questo è un sistema a capitalizzazione, ma non è il sistema italiano, cioè i fondi pensione funzionano così, ma il sistema grosso, che paga 248 miliardi di euro dati del 2012 di pensione, funziona in maniera a ripartizione, ovvero sia sono i contributi dei lavoratori che attualmente lavorano, che erano in quell'anno lì 210 miliardi, finanziano 248, se la matematica non è un'opinione, ci sono 38 miliardi che ballano, ovvero sia che paga qualcuno che inizia con Contri e finisce con Buente. La fiscalità generale come... ed è un tema generazionale, capisco che i politici non ne vogliono parlare, mi piace anche fare un confronto tra l'Italia e gli Stati Uniti. Negli anni in cui Colin Powell era diventato segretario di Stato si apprezzava il fatto che una persona di colore fosse diventata segretario di Stato, ma il tema è questo: quanto è razzialmente divisa e quanta discriminazione c'è negli Stati Uniti? Non basta avere un segretario di Stato di colore per cambiare le cose. Dallo stesso punto di vista, nel caso italiano, non basta avere un presidente del Consiglio giovane della mia generazione, cioè della generazione precedente alla classe dirigente precedente, per cambiare le cose, perché altrimenti si fa un giochetto comunicativo che lascia il tempo che trova, almeno lascia il tempo che trova nel mio caso, perché a me interessa vedere i numeri, e i numeri sono quelli di una prudenza che, ripeto, ha un forte carattere elettorale. Poi ci possiamo nascondere dietro un dito, possiamo fare le slide, possiamo fare contro slide. Naturalmente, professore, lei piace il PDF, non piacciono le slide. Lei ha chiaro che così ci mettiamo in una minoranza assoluta, visto che nel partito di Renzi molti dicono che questo è un programma di destra, troppo di destra e così via. Però ovviamente, ragazzi, nel dibattito si fa conto del fatto che è molto vicino alla loro posizione. Appunto. Allora, dovrebbero pensarci. Una telefonata da Stefano che ci chiama da Gorizia. Stefano, tu cosa hai capito e come la pensi? Buonasera, io sono d'accordissimo col professore, per me è sicuramente una cosa elettorale. Ti faccio il mio esempio, Giannino. Sì. Io sono un capo famiglia che lavora da solo per scelta nostra, proprio per il problema del lavoro. Io lavoro da solo, ho due figli e moglie a carico, 1700 euro al mese, non prenderò un cent da quello che si dice. Stranamente mio fratello lavorano in quattro, 1200 euro al mese, loro si porteranno a casa probabilmente 360 euro. Non mi sembra molto corretta questa situazione, se sarà così, perché se sarà così, perché oggi nessuno lo sa. Esatto. Capisci che parliamo di sesso degli angeli qua, si sta parlando del sesso degli angeli di 80 euro, ma chi gli diamo 80 euro? Buh. Poi c'è anche il tema dell'IRAP, cioè esatto. c'è anche il tema di che cosa è stato scelto come taglio. Capisco dal punto di vista della domanda il fatto di voler dare un contributo, ma innanzitutto, come ricordava lei prima, la no tax area, cioè coloro che non pagano le imposte, non ricevono un beneficio. Adesso il tema è di includerli, ma il problema italiano non è tanto il fatto che il salario reale sia basso, il problema italiano è la disoccupazione. Esatto. Questo è il problema. E allora, da questo punto di vista, per facilitare le esportazioni, per migliorare i margini di profitto che inducono le imprese a investire, la cosa che doveva essere fatta, e su questo ha pienamente ragione Squinzi, era tagliare di più l'IRAP. E invece l'IRAP è stato confermato al 5%, che fa ridere. È finanziato con un aumento d'imposta che secondo me è completamente sbagliato, perché, ripeto, come abbiamo spiegato più volte, ci torneremo quando poi sarà all'esame parlamentare, siccome esenta questa aliquota del 26% in maniera eccessiva tutto ciò che è risparmio titoli di Stato, che resta al 12%, primo. Secondo, poi è regressivo perché colpisce a prescindere dal totale dei redditi dei beneficiari di quella parte dei redditi del capitale, esenta gli intermediari finanziari, cioè le banche, esenta i lordisti, cioè le imprese, esenta i soci qualificati delle imprese. Capite bene che qui di sinistra c'è poco ed è sbagliato semplicemente l'aggravio. In più, per una diminuzione dell'IRAP così bassa. Siamo ipercritici? Sì, lamentatevi che siamo ipercritici, però il mestiere ovviamente non spinge a dire solo tutto quello che va bene, ma soprattutto a farvi riflettere su quello che si può fare meglio. Quindi grazie al professor Riccardo Puglisi, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.